apagar. Una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Oggi parlerò di un argomento che non conosco affatto. Io sono legato anche a giocare a 7.5 a carte. Più o meno ricordo come si giocasse a scopa, ma potrei anche sbagliarmi. Sono sempre stato profondamente negato a ogni forma di gioco d'azzardo, non perché non ami l'azzardo, non capisco il gioco, è come il ballo, è qualcosa che non mi appartiene fisiologicamente. Usava nelle mie contrade giocare molto sotto le feste tra Natale e Capodanno. I perugini sono dei grandi giocatori, ci sono favole di famiglie rovinate, di professionisti che hanno doppie, terze e quadruple vite, dedicano la notte al gioco, il giorno alle loro stimate professioni, esistono circoli cittadini, esistono circoli clandestini, esistono bischi, insomma, il gioco serpeggia nel sangue delle migliori persone che si vedono piacevolmente passeggiare lungo il corso cittadino. Io una volta provai con alcuni miei amici a buttarmi nel vortice del gioco d'azzardo. Comprammo una piccola roulettina di plastica in un negozio di giocattoli e andammo tutti a casa del nostro amico ricco perché avevamo deciso di fregargli un po' di soldi con la roulette. Ci eravamo tenuti un po' di fish in tasca, quindi ogni volta poi si andava a riscuotere, non avevamo più fish di quelle che avevamo comprato e ci guadagnavamo qualche soldino in più. Ci sembrava di essere tanto furbi. Venne fuori il padre di questo nostro amichetto. Noi eravamo ragazzini, che avremmo fatto? Boh, il ginnasio, forse così. Il padre era un attempato viver perugino che probabilmente passava la sua vita ai tavoli da gioco. Beh, in 10 minuti si riprese tutti i soldi che avevamo fregato al figlio, anzi, alla fine fummo costretti a lasciare anche la roulette di plastica come pegno, perché non avevo nient'altro da dargli se non le mutande. Questo per dimostrare che io sono profondamente negato. Ma invece in Italia pare che è quella del gioco d'azzardo sia un'attività molto lucrosa, lucrosa anche per lo Stato naturalmente, oltre che per i privati. A fine del 2008, secondo una stima dell'Agipronews, gli italiani avrebbero speso qualcosa come 47 miliardi tra gratta e vinci, poker online e scommesse. Il Corriere della Sera giorni fa fece un'inchiesta proprio sul boom del poker online, che ha una tassazione molto bassa sulle sue vincite, mi sembra al 3%, poi ci saranno gli esperti, ci conforteranno anche sui dati. Beh, viene fuori che noi siamo un popolo di grandissimi giocatori. Sono 800 euro la cifra media che ogni italiano ogni anno spende per giocare d'azzardo, quindi le tante persone come me che mai nella vita sognerebbero di farlo sono compensate comunque da quello che giocano tanti loro colleghi, amici, insospettabili persone che vedono per strada. Il 78% degli italiani comunque insegue la fortuna al gioco o ha puntato almeno una volta nel corso dell'anno a un gioco d'azzardo. Sono 30 milioni gli italiani che ogni giorno rincorrono la sorte attraverso il gioco d'azzardo. 1,3 milioni di italiani sono a rischio dipendenza da gioco, giocando più di 3 volte alla settimana, che pare sia la soglia massima per considerare il gioco una terribile iattura. Prima di cadere nel vortice del gioco d'azzardo, avevo sempre giocato la classica schedina, 2 numeri al lotto, la tris, però poi 4 anni fa ho cominciato a non avere più freno, giocavo a tutto. Corse dei cavalli, casinò, videopoker. All'inizio ero affascinato, ma col passare del tempo i soldi che puntavo superavano di gran lunga il mio reddito mensile. E quindi chiedevo soldi in prestito a tutti: banche, finanziarie, parenti, amici. La situazione mi è completamente sfuggita di mano. Volevo smettere. Me lo ripromettevo ogni giorno quando tornavo a casa sconfitto. Ma puntualmente, il giorno dopo, Ricominciavo. 800240024. Quanti tra coloro che mi ascoltano fanno parte di questa fetta cospicua di italiani che considerano normale tentare la fortuna al gioco? Ora la persona che stiamo ascoltando, la ricostruzione presa da una storia vera di un giocatore redento, come se il gioco fosse realmente, e lo è realmente in alcuni casi, lo ricorda la mia storia personale, i ricordi fanciulleschi che vi ho raccontato. Il gioco, quando diventa un demone, rovina le persone, rovina le famiglie, molto più di quanto possa farle altri tipi di dipendenze. La dipendenza che almeno esternamente non dà segni fisici esteriori di quanto possa rodere poi la persona, corrodere e distruggere questo tipo di vizio. Però dopo, nel tempo medio, si vede nel tenore di vita delle persone, gli averi che si devono alienare. Mi stanno già scrivendo tantissimi ascoltatori sul mio profilo di Facebook raccontando storie familiari di parenti dediti al gioco. In tutte le famiglie c'è uno zio, un nonno, un parente lontano e secondario che si è rovinato parte del patrimonio comune al gioco. Chiara dice di una sua nonna capace di lapidare le fortune dei suoi mariti, di sopravvivere ai tre colli e alle vedovanze. Nei primi anni 70 fu interdetta all'entrare in un casinò, giocava all'otto, giocava ai voti degli esami della nipotina all'università, ogni dettaglio che riguardasse la cosa, tipo il sesso del professore, l'età del professore, la giornata di sole, la diversa condizione meteo, l'ora dell'esame, insomma qualunque numero era buono per giocare. Vinceva, ma non dava neanche una mancetta, la nipotina che poi gli dava i numeri. Oggi la farebbero curare. Lei, classe 1900, si è invece divertita da morire, ma nella mia famiglia anche comprare il biglietto della pesca e beneficenza della parrocchia era diventata una trasgressione troppo forte. Giorno dopo giorno le mie preoccupazioni aumentavano, avevo sempre più debiti e vedevo solo una via d'uscita, il colpo vincente, perché il pensiero era: più è alta la posta scommessa, più è grossa la somma vincente. Ma puntualmente perdevo. Per mantenere questo ritmo di vita ho ferito molte persone. Dicevo bugie inverosimili e recitavo di fronte alle persone a me care. Ho perso, oltre al denaro, credibilità e dignità. Marco mi scrive: che dire del lotto? La madre di un amico mio, prima che i figli se ne accorgessero, aveva speso 13.000 euro giocando all'otto con il sistema del raddoppio, che un'amica l'aveva spiegato come matematico ed infallibile. Aggiungo che la signora in questione era pensionata e i figli fanno gli operai. E questo dell'otto tende un pochino a smitizzare questo alone romantico, fumoso, trasgressivo, lievemente bohemien del giocatore. Il lotto sono oneste massaie, tranquille vecchiette, normali madri di famiglia che passano le proprie giornate nell'arzigolare sistemi per giocare al lotto, impegnandosi oltre le loro possibilità. E il sistema del raddoppio è terrificante: ogni volta che si perde si raddoppia la posta che si mette in gioco, pensando di recuperare i soldi perduti, e naturalmente non si vince mai. Sono diventato papà di un bambino stupendo, ma nemmeno la sua nascita mi ha distolto dal gioco. Tutti i sabati scaricavo mio figlio ai miei genitori con la scusa che dovevo andare a lavorare. In realtà andavo nelle sale ippiche. Soffrivo, ma non vedevo vie d'uscita. Troppi i debiti contratti. Il solo modo era vincere, ma mentivo anche a me stesso, perché se avessi vinto una grossa cifra, l'avrei sicuramente rigiocata. Fino a quando un giorno sono stato messo alla porta da mia moglie, disperata. È stata la svolta, perché ho capito che stavo perdendo le cose più care che mi erano rimaste. E dopo tanta autodistruzione e sofferenza è arrivato il momento della rinascita, perché ho deciso di chiedere aiuto e seguire un programma di recupero. Oggi vivo una realtà più felice. È anche difficile mantenere questa sorta di senso di patologia riguardo al gioco. Il giocatore è quasi come un alcolista anonimo, quasi come un dipendente dalla persecuzione amatoria di cui abbiamo parlato ieri. Si rivolge allo specialista, al medico, e chiede di essere disintossicato. Come parlare di intossicazione di un fenomeno che oggi è diventato anche intrattenimento televisivo? Abbiamo colto ieri alcuni pezzi di un canale satellitare, Blob Betting Channel Scommesse TV, dedicato tutto alle scommesse televisive, condotto da un ineffabile Rocco Casalino, uno degli eroi degli antichi e preistorici Grandi Fratelli, completamente rivirilizzato, quindi si è fatto i capelli a spazzo, si è gonfiato le mascelle, si è gonfiato le labbra, c'ha quell'aria un po' spaccona da mediatore di gioco, e intervista di noiosissimi signori sul gioco e delle scommesse. per un profano come noi assolutamente noiosissimo, ma per chi dedica la propria esistenza, i momenti liberi della propria giornata, i momenti liberi della propria emotività a questa attività, è un canale televisivo meraviglioso. La più grande community di poker online. Mentre tu ci pensi, gli altri vincono soldi veri. Ciao a tutti dalla vostra Maria Teresa Ruta. Vi ricordo che vi aspetto tutte le domeniche dalle 14 alle 18 con Domenica Win, l'unico programma realizzato apposta per gli appassionati di sport, ma soprattutto per gli appassionati di scommesse. Amate, a fasi alterne almeno negli ultimi anni, le lotterie stanno oggi vivendo una seconda giovinezza. Un italiano ha vinto per la prima volta un torneo internazionale di poker, portandosi a casa un assegno da 774.000 euro. Sono 500 anni che esiste il gioco del lotto, quindi è un piacere far parte della cultura e della tradizione italiana. Ripeto, è un piacere che questo gioco ancora coinvolga tanti appassionati e che a fine 2008 raccoglierà quasi 6 miliardi di euro, quindi che lo pone ancora al terzo posto dei giochi più amati nel nostro paese. Questo era Betting Channel, il canale dedicato alle scommesse, al gioco, a tutto ciò che riguarda l'argomento che stiamo trattando, su cui vi pregherei di dare un vostro contributo, sia esso interessato e informato, telefonando all'800 24 0024, ossia di chi come me guarda con sorpresa e con divertimento questa passione che lo attraversa senza appunto contaminarlo. Poi esiste un nuovo format televisivo che appunto è importato dal Texas Hold'em, dal poker spettacolare, sportivo, importato agli Stati Uniti, che è diventata una passione anche alle nostre latitudini, dove interi programmi televisivi animati da Pupo, da altri personaggi dello star system televisivo nostrano, che hanno confessato più volte, anzi fatto come cifra cospicua della loro esistenza e del loro personaggio, il fatto di essere passati attraverso la fiamma devastatrice del gioco. Uno è Pupo, ma ce ne sono tantissimi altri, il radiofonico Baldini, l'attore televisivo Scarpati, ma ce ne sono tantissimi altri, altre grandi dive della televisione, delle quali non si può dire perché sono molto più riservate, ma si sa che si sono giocate interi patrimoni alle carte, al poker o al gioco d'azzardo. Anche qui c'è una particolare attenzione d'immagine ai giocatori. Il modello è quello americano, quindi i nostri giocatori di poker televisivo, poker sportivo, hanno limitazione anche negli aspetti esteriori, quindi sapendo che il pathos viene dato dalle loro espressioni, dal loro tentativo di non tradire comunque quelle che sono le carte che hanno in mano o le loro mosse nel gioco. Sono molto ignorante, cerco di arrampicarmi sugli specchi, quindi molte volte si mettono degli spessi occhiali a specchio per non far vedere gli occhi e non far capire quale sarebbe la mossa. I più fanatici e più burini si mettono anche i cappellini, le felpe, si coprono più che possono. Poi, siccome ho visto che gli americani si mettono dei grossi anelli, visto che le mani sono sempre in primo piano, anche i nostri di rimando si mettono i grandi anelloni, si mettono per dimostrare che loro hanno le physique du rôle del giocatore di poker sportivo. Asso all-in di rosa con asso 7. Gol. Chiama Minas con 2-5, giusta chiamata. Giusta chiamata. Non bisogna perdere la concentrazione. Concentrato. Showtime, amici. Minas per restare dentro. Un 7 e un asso servono a rosa per sbancare Venezia. Per me sta bleffando. Finge di essere sereno, ma io lo so che è tesissimo. Per adesso comandano i 2-5 di Minas. Vediamo comandano se il Blood River di Minas. Comandano i 2-5 di Minas. Asso! Asso! Massimiliano Rosa è il campione della prima notte del poker. È bello che poi tutte le riedizioni nostrane devono ricostruire di clima da Las Vegas, e molte volte soprattutto nelle televisioni più povere, negli spettacoli più poveri, il luogo in cui si svolgono questi tornei di poker poco hanno a che fare con l'ambiente opulento, luminoso, che trasuda ricchezza ad ogni poro come quello di Las Vegas. Però questo è comunque diventato un fenomeno nazionale, qualcosa che ormai ci appartiene, fa parte della nostra cultura, composta anche di culture importate. Antonio, buongiorno. Buongiorno. Lei è un ex giocatore? Sì, in gioventù, adesso 50 anni, non gioco più. Ma ha giocato al punto di rischiare la rovina, oppure è un giocatore tranquillo? Se vuole, dico la mia esperienza. Noi eravamo un gruppo di persone che andavamo, si giocava nelle classiche salette dietro il bar. Semibische, diciamo. Delle semibische. Sì, chiaramente. Noi eravamo così partiti tranquilli con la solita bevuta, il panino, e dopo siamo scivolati man mano a giocando soldi. E una sera, cioè non si rendevamo neanche conto di che ora era, perché tante volte uscivamo alle 5, alle 6 di mattina, il gestore ci dava le chiavi e dopo chiudevamo noi alla porta del bar. E niente, una sera quando si giocava, noi giocavamo soprattutto a scala 40, o a poker, una sera ho visto una persona che avevo vinto quasi all'epoca quasi 2 milioni. E niente, allora ho visto la faccia di questa persona che si era messa in ginocchio piangendo che voleva indietro i soldi, sennò era rovinato così. Vabbè, un giocatore chiede i soldi indietro è un fallito. Sì, ma ho visto l'umiliazione della persona. E mi sono reso conto che forse se io sono in questa situazione cosa dovrei fare. E da allora non ho più giocato. Beh, penso che nelle liturgie del gioco un giocatore chiede soldi indietro, un uomo senza nessuna dignità, una volta ci si siede al tavolo. Io non condivido perché non so giocare, non mi piace, non amo quel tipo di emozione. Però una volta che uno si siede a un tavolo e poi implora agli altri di ridargli soldi indietro, penso che sia un solenne buffone, non lo so, mi sembra. Sì, ma io ho detto, se io mi trovo in quella situazione, cosa faccio? Mi metto anch'io in ginocchio, accetto la perdita o così, e da allora ho detto basta, non gioco più. Quindi è stato così emotivamente scioccato. Vabbè, in fondo non mi sembra che erano cifre che l'avrebbero portata proprio alla rovina. Ancora Le parlo di 30 anni fa, 2 milioni erano parecchi. Ah, beh, sì, per quei tempi probabilmente sì. Ma lei come riusciva a avere poi una vita normale passando praticamente? Beh, a parte il fisico giovane, che insomma andavamo a via alle 3, mi bastava 2 ore di sonno e andavo al lavoro. Adesso se le rifarei qua a vita, dopo una settimana sarei in ospedale, ricoverato in ospedale, però insomma si beveva con l'alcol, con le sigarette, insomma ci si teneva su. Va bene, grazie Antonio, grazie di averci dato un primo assaggio di quella che è ancora una forma, diciamo, molto arcaica e molto romantica del demone del gioco, perché oggi viene modernamente inteso in tutt'altra maniera e forse ci aiuta a farcelo capire, visto che è diventato un fenomeno televisivo. Giuseppe Catalano. Catalano, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Catalano, tu sei il produttore del primo format italiano sul poker Texas Hold'em, La Notte del Poker, che sta andando in onda su Sky. Quindi ci rappresenti, diciamo, chi produce questo format televisivo. Ecco, come può diventare un gioco in una forma così lontana dalle nostre tradizioni proprio di gioco alle carte, improvvisamente un format di successo in televisione? Innanzitutto preciso che mi occupo della comunicazione per Tubicom, che produce il primo format televisivo italiano che è dedicato al Texas Hold'em, grazie a un'idea di Umberto Chiaramonte che 2 anni fa si è fatto venire appunto questa idea. Abbiamo iniziato a produrre questi format sul Texas Hold'em e ne abbiamo fatti 5 in 2 anni, tra cui l'ultimo andato in onda dal 1 al 6 gennaio proprio su Sky, in base al quale ho fatto anche uno studio sui numeri del poker. La natura propria del Texas Hold'em ci permette di parlare di poker in senso sportivo e non più come gioco d'azzardo, perché per suo regolamento il Texas Hold'em è un gioco per cui è praticamente impossibile rischiare di devastare un patrimonio. Si paga semplicemente l'iscrizione al torneo, che mediamente è una cosa che va da pochi euro a un tetto di 100 euro per i tornei normali. Chiaramente poi ci sono i tornei per professionisti o i grandi eventi. Sì, ma allora perché del poker c'è Pupo, che ormai fa parte della sua dimensione artistica, a piangersi sempre addosso sulla sua sfortuna al gioco, sul suo essere stato un disgraziato giocatore, via dicendo? Perché c'è questo reperto archeologico ancora presente? Beh, quello è un po' legato al fatto che nel suo passato ci sono stati indubbiamente dei... Sì, ne ha fatto una cifra di splendore andando a piangere di quanto aveva perso le carte. Fa quasi tenerezza. Più che piangere, credo che Pupo ricordi quel periodo come un periodo passato. Adesso Lui stesso racconta, e non c'è motivo di dubitarne, che non va più in giro per i casino di tutto il mondo a sperperare tutto quello che guadagna e anche i soldi che non ha, finalmente, tra virgolette, messo la testa a posto, e anche lui si dedica al Texas Hold'em, che è un gioco in cui al massimo si rischia di perdere l'iscrizione al torneo. E per questo è stato introdotto anche in Italia come skill game, che sono quella serie di giochi basati sull'abilità e sulla strategia e non tra i giochi d'azzardo che per legge sono vietati o tra le scommesse come il gratta e vinci, il superenalotto e altri concorsi su cui comunque lo Stato ha il suo bel tornaconto. Ecco, tu avevi detto che hai fatto anche uno studio, sì, probabilmente sì, per documentarti e poi fare questo. Ci fai un quadro dal tuo punto di vista, proprio se possibile anche in termini di numeri, riguardo la passione degli italiani per il gioco? Ovviamente, considera che uno studio di Economist calcola in 180 milioni il numero di giocatori attuali di poker Texas Hold'em nel mondo. In Italia si calcola che siano 600.000 i giocatori abituali di questo gioco. Da quanti anni è che è stato introdotto? Non è tantissimo, pochissimo tempo. No, è da pochi mesi, è da settembre che è stato introdotto come gioco a cui è possibile giocare. Ma se ne parla massimo da un anno e mezzo, non da più. Sì, considera, noi abbiamo fatto la prima produzione per Sky proprio 2 anni fa, quindi non è tantissimo. In Italia ci sono delle poker room in cui si gioca gratis già da parecchio tempo e da settembre è stato introdotto il gioco, diciamo, a soldi. Senti, ma corrisponde quello che ho visto io più o meno, queste forme esteriori imitative dei grandi campioni americani, gli occhiali a specchio, gli anelloni, un certo abbigliamento, tende a dare una conformazione di attività sportiva a questa attività? No, non è sicuramente l'abbigliamento di un giocatore che ne fa lo sport, è sportivo perché si basa semplicemente sulla propria abilità, non c'è, nel momento in cui tu ti iscrivi a un torneo ricevi uno stack, si dice in inglese, cioè ricevi una puglia di fish che sono semplicemente simboliche, testimoniano il fatto che tu stia giocando bene, quindi la tua cifra sale, o stia giocando male e quindi perdi tutto, ma non c'è una corrispondenza reale fra le fish che tu giochi e i soldi che vinci, perché c'è un montepremi che viene stilato in base al numero di giocatori che si iscrivono e poi alla fine, in base a come ogni giocatore si posiziona alla fine in classifica nel torneo, vince il premio corrispondente alla propria posizione. Diciamo per fare un paragone comprensibile forse ai profani come me, che il Texas Hold'em, cioè il poker sportivo, sta all'antico poker, quello per cui le famiglie si rovinavano, le mogli piangevano, i figli finivano in miseria, come il torneo cavalleresco cruento medievale sta alle rappresentazioni in piazza delle proloco che si fanno soprattutto in primavera, molto nelle mie contrade. Parlando del demone del gioco, abbiamo visto che esistono forme edulcorate, forme sportive, forme incruente di gioco nella sua rappresentazione più fantasmagorica, che è il Texas Hold'em, che è diventato argomento di rappresentazione televisiva, visto che le lotterie in televisione non tirano più tanto. Mi pare che la notte della Befana con Raffaella Carrà va da sé, non abbia avuto poi tutto questo successo di pubblico. Si sta spostando l'attenzione verso la frenesia del gioco rappresentato, del gioco guardato in televisione, del gioco partecipato attraverso un mezzo televisivo, dalla vecchia, antica e romantica lotteria al poker giocato dagli americani. Ma non vorrei nemmeno sdrammatizzare troppo il senso profondo di dissoluzione legata al gioco. Gioca chi gioca, chi ama giocare, chi ama sentirsi sempre sul ciglio dell'abisso con un mazzo di carte in mano o con qualcosa su cui scommettere, sa che l'aspetto più seducente del gioco è proprio che è qualcosa che consiste nell'affidare una parte importante di se stessi al caso, che è qualcosa di totalmente imprevedibile, qualcosa che ci può annichilire come ci può portare ai vertici della felicità. e l'annichilimento della felicità è data proprio dalla consistenza del bottino che sta appoggiato su quel tavolo di fronte a cui alcune persone, magari amici, magari consanguini, magari persone che nella vita normalmente si scambiano affettuosità o formalità ad uso, di fronte a quel tavolo diventano dei nemici, pronti a sgozzarsi e a bere il sangue del proprio avversario pur di uscire trionfatori da quel tipo di gioco. Senta, io conosco abbastanza bene la sua situazione finanziaria e so benissimo che lei non può permettersi di giocare oltre quello che sta perdendo. Come non posso permetterlo? Perché? Senza nessuna garanzia. Lei a questo tavolo non può continuare a giocare. Come senza nessuna garanzia? Scusi, ma ho uno dei migliori cinema di Milano, loro lo sanno tutti. Lei conferma quanto il signore dice di possedere? È chiaro che confermo. Certo, cioè, lo confermo, poi lo sanno tutti. È nel cuore di Milano, no? Bene, allora mi scusi, possiamo continuare. Continuiamo. 2 milioni. 10 milioni. No. Beh. Carte. Servito. 50 milioni. Per 5. Dai, vieni via, Franco, vieni via. Ti faccio scappare. 150 milioni, tutto quello che hai, capisci? Tutto il cinema, Franco. Lasciala in pace. Ma come lascialo in pace? Non vedi che ci sta pensando? Lasciala in pace e mettiti seduto. Ci sta pensando! Vuole rovinarsi definitivamente. Voi sarete i suoi amici, belli amici. Senta, la prego di uscire immediatamente. Va bene, io me ne vado. Franco. Franco, vieni via. Questo lo ricorderete senz'altro, è un classico, è Il regalo di Natale di Pupi Avati, un film dell'86 che poi ha avuto un suo seguito anche fortunato non molti anni fa, il film che sancì il passaggio di Diego Abatantuono da eccezionale veramente, dal Teruncello a attore drammatico, film con Carlo Delle Piane, con attori di grosso calibro, che spiega in maniera lineare, essenziale, quello che è il meccanismo del gioco nella provincia del nostro paese, quello che è il tarlo del giocare. Sono degli amici che siedono a un tavolo, apparentemente per il piacere comune di giocare a carte, ma in realtà tendono una trappola terrificante uno di loro. Sono tutti d'accordo, avendo chiamato un giocatore professionista, nel effettuare un forzato travaso di denaro dalle tasche di un loro amico alle loro tasche. Sì, perché il gioco alla fine è soltanto questo. È inutile ammantarlo di aloni, di passioni. Sono 4 persone che si conoscono, che hanno fra di loro normali rapporti e normali frequentazioni, si sorridono, stappano una bottiglia, cominciano a giocare alle carte, fingono che quello sia un gioco, ma in realtà ognuno di loro vorrebbe scucire più denaro possibile dalle tasche degli altri seduti a quel tavolo. Allora cosa hai deciso di fare? Una decisione molto difficile, possibilità sono 2. Non fa parte delle regole del gioco, ma essendo io vincente glielo offro. Lei non sa quanto bene mi abbia fatto vederla battuta, non può capirlo. È per questo che mi sento di poterle offrire una terza strada senza che nessuno abbia qualcosa da obiettare. Può alzarsi, infilarsi il cappotto, risalire sulla sua auto e andarsene senza aver perduto nulla. Cioè lei mi abbonerebbe tutto? Non è regolare forse, ma a Natale voglio farle questo bellissimo regalo. Sinceramente una cosa del genere non mi è mai capitata. Non era mai capitato neanche a me di vincere e lo sto dimostrando. Naturalmente Abatantuono non fa come il vigliaccone che ci ha descritto il nostro ascoltatore, si mette in ginocchio a piangere, datemi i soldi, va a vedere le carte e sarà la sua rovina, perché in realtà Delle Piane è sottile, astuto, psicologo, fingendo di fargli un regalo di Natale, in realtà quasi fa capire di avere delle debolezze di carte in mano, ma in realtà gli porterà via tutti i soldi. Finalmente abbiamo dei veri, sani, corrotti giocatori incalliti. Fabrizio, buongiorno. Sento sì, addirittura buongiorno. L'eco demoniaco della mia voce, spenga la radio. Sì, sì, l'ho spento. Ecco, allora, lei è un ex giocatore di casinò, lotto e chissà quant'altre cose. Sì, sì. Si è disintossicato però. Mi sono disintossicato, sì, perché ho visto che la situazione purtroppo mi era scappata di mano, quindi ho cercato conforto, diciamo, parlandone con la mia famiglia. Quindi è andato a piangere dalla moglie dicendo non lo faccio più, qualcosa del genere? Fratelli, madre, moglie anche. È un po' la situazione di quando uno confessa alla famiglia di avere un amante, perché se ne vuole liberare naturalmente. Esatto. Assomiglia un po' alla situazione. Assomiglia anche perché è un peso talmente grosso che solo io penso solo con questo si possa riuscire a cavare, parlandole. Fa parte della catarsi, dell'espiazione, rendere pubblica la propria colpa. Esatto. Io per questo non mi pento, perché sono già 5 anni che sono venuto fuori da questa situazione abbastanza pesante. Lei quanto si era compromesso con il gioco in percentuale rispetto alla sua capacità di acquisto, diciamo? Praticamente io giocavo i soldi che non erano ancora i miei, quindi il doppio di quello che, cioè, per dire una cifra, era il doppio perché non erano i miei, quindi dopo sono... Ecco, in quel caso cosa si fa? Si va dagli strozzini? Come si fa quando poi non si hanno più soldi? Non si fanno più soldi, o se uno è un po' forte di carattere, o se no si va purtroppo dalla strada. Ecco, ma c'è un cordone sanitario di persone che bazzicano attorno ai giocatori, pronte a intervenire qualora mancasse del denaro liquido e naturalmente prendono illeciti vantaggi? Sì, c'è, però io fino a quel punto lì non mi sono mai portato. Comunque ci sono. E adesso sono molto preoccupato per la gente che gioca nelle macchinette dei bar, presente. Questa è una cosa veramente deleteria, anche se lo Stato lo sta regolamentando. Io vedo delle persone che si giocano, stanno lì delle ore e ore e ore a buttare dietro dei soldi. È un vizio che purtroppo è un vortice che prende tanta gente. Senta, lei ci crede, ma sia sincero, al pentimento assoluto del giocatore o la ricaduta è sempre dietro l'angolo? Oddio, per me la ricaduta è dietro l'angolo. Uno deve toccare il fondo. Se ha toccato il fondo non ci ricasca più. Grazie Fabrizio, passiamo a Luca. Luca, buongiorno. Buongiorno. La sua è una situazione che somiglia a quella del suo collega ascoltatore giocatore? Sì, ma io non ho ancora smesso però. Ah, lei è ancora dentro, c'ha la scimmia sulla spalla. No, a me piace, gioco, tra virgolette come un... è diventata parte di me. Ecco, io vorrei un'altra sincera affermazione da lei, perché siamo tutti pronti a considerare il giocatore come il dipendente da sesso, come il drogato, come il fumatore, come chiunque abbia una dipendenza, come soltanto un povero disgraziato. In realtà dà anche piacere giocare, immagino, se no non lo faresti. Assolutamente, tantissimo, tanto piacere, anche quando si perde. E questo me lo spieghi meglio, come, quali sono le gradualità della piacevolezza al tavolo da gioco? Guardi, si comincia, ci si siede, ci si parte, si cambiano i soldi, si prendono le fiche, si toccano le carte, si parte col gioco e man mano c'è una gradualità di piacere che cresce, anche nella sconfitta, man mano che si continua il gioco, qualsiasi gioco sia. Quindi assomiglia quasi a un atto d'amore in fondo, tutto sommato, se si vuole peccaminoso. Molto personale, resta tutto personalmente dentro questa adrenalina che cresce mentre si toccano le carte, mentre gira la pallina nella roulette, mentre escono i numeri della tombola, qualsiasi gioco sia. Grazie. Questa voglia di giocare. Lei pensa che intravede la strada della redenzione del pentimento, non gliene frega assolutamente niente e continuerà a giocare, tanto per assolutamente gioco, posso tra virgolette me lo posso permettere, questo è... E come li vede invece allora i pentiti, quelli che si piangono, dicono non lo farò mai più, che vanno dalla moglie e dicono... Sono pronti a rituffarsi dentro. Ma quindi lei dice è un falso pentimento? Sì, non, cioè... È come diceva lei, un drogato, appena si può si ritorna dentro. Allora, abbiamo soltanto, la saluto, soltanto un minuto, introduciamo soltanto il discorso, ma lo riprenderemo poi nella terza parte di Melog. Abbiamo la dottoressa Daniela Capitanucci. Dottoressa, buongiorno, che è presidente dell'Associazione Azzardo e Nuove Dipendenze. Come ieri parlammo degli stalker, oggi parliamo dei giocatori. Qua abbiamo categorie insospettabili di persone che si dedicano alla propria redenzione. Lei si occupa di recupero di giocatori? Sì, anche di recupero di giocatori. Intanto buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Le due testimonianze di prima hanno toccato due aspetti importanti. Allora, cominciamo a chiarire: il gioco d'azzardo in se stesso è una pratica, è un comportamento che può essere assolutamente normale, piacevole, può essere fatto da una stragrande maggioranza di persone senza nessun tipo di problema. Come tutti i vizi, d'altronde. Come tutti i comportamenti umani. Bisogna farsi la domanda di: ma quando è che una passione, il termine che abbiamo usato, diventa una malattia. E vale la regola che ho detto prima delle 3 volte a settimana, superate quelle diventa pericoloso? Ma guardi, io utilizzerei un criterio che è questo rispetto al gioco d'azzardo, cioè diventa patologico quando gioco più denaro, più a lungo, più spesso di quanto io ho previsto, di quanto mi posso permettere, e a quel punto lì anche il piacere non è più un piacere, diventa un obbligo. Non gioco più perché sono contento di giocare, perché mi sento meglio, ma perché devo giocare, perché non posso fare diversamente. Grazie dottoressa. Ciao, mi chiamo Marco, sono praticamente circa 3 o 4 mesi che mi diverto un nuovo gioco che si trova online, che è praticamente il poker. È iniziato così, tanto per tra gli amici passaparola. All'inizio devi versare dei soldi utilizzando i normali metodi, carte di credito. Questi soldi vengono convertiti e poi si fanno dei tornei, puoi scegliere, ci sono tornei molto grandi da 1500 persone, tornei anche da 10, diciamo il classico è 10 o 18 persone. Il poker online tende a rafforzare quel sentimento diffuso che in realtà le relazioni attraverso macchine, attraverso protesi, non fanno altro che rafforzare il nostro desiderio, la nostra compulsione, la nostra voglia comunque di provare fino in fondo quelle che sono le pulsioni sconosciute, che intravediamo soltanto, che intrasentiamo, delle quali non conosciamo l'esatto spessore quando si diffondono attraverso i nostri sensi. Il poker online, che recentemente è una pratica non condannata alle nostre latitudini, anzi probabilmente anche incoraggiata, visto che lo Stato ne ha buoni proventi, è diventata una delle maniere per tenere ancora più avvinti le persone ai computer, che sono macchine di lavoro, macchine di relazione e macchine anche di fuga verso le proprie passioni più segrete. Puoi giocare con quelli che conosci, se ti incontri, ti dici l'appuntamento, dici ci vediamo lì, ci incontriamo sul tavolo, cioè quando tu ti connetti al sito c'è una lista di tornei a cui puoi partecipare, che sono liberi e mano a mano si riempiono, e magari ti capita di giocare col tuo amico allo stesso tavolo, oppure tu ti connetti e giochi con chi capita in quel momento, chi si connette in quel momento, chi si iscrive a quel torneo. Non si fa molta amicizia, però ti capita di vedere, magari di rincontrare la stessa persona, c'è anche una chat mentre giochi, nel quale puoi dire ah ma che culo che hai avuto, per esempio, così, o quasi molto anche più pesanti. È singolare ma anche interessante vedere come si stiano spostando i comportamenti sociali da una reale, concreta frequentazione sensoriale delle persone a un sistema che ormai si applica a un'infinità di attività umane, che è quello dell'interazione online. Anche i giocatori, come se fossero tutti seduti allo stesso tavolo della stessa fumosa bisca, ognuno davanti al proprio computer, magari durante l'orario d'ufficio o nelle serate in cui si dice in famiglia non disturbate il papà che deve lavorare anche stasera, ci si scambia commenti con gli altri flaneur che stanno di fronte al tavolo, anzi in questo caso reali giocatori che stanno di fronte al tavolo da gioco. Ma questa è una situazione che forse condivide il nostro ascoltatore Abram. Abram, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Lei gioca online? Io gioco online, sì, ma diciamo che oltre al poker e scommesse sportive, eccetera, eccetera, io volevo parlare oggi di una cosa di cui non si parla mai. Cioè parliamo. Il trading online. In pratica è l'acquisto e la vendita di azioni, strumenti finanziari complessi, tipo derivati. Sì, oggi saranno un pochino più attenti. È stata una passione che ha appassionato moltissimo gli italiani fino a qualche tempo fa. Oggi secondo me la gente ci pensa 50 volte. Non è proprio così, perché si può vendere, cioè si può acquistare o anche vendere, si può giocare cioè anche al ribasso. Cioè si può giocare anche contro il mercato, ad esempio vendendo un titolo di cui non si ha effettivamente il possesso, ricomprandolo dopo in un secondo tempo, sperando che il prezzo di questo titolo sia più basso rispetto al prezzo di vendita iniziale. Scusi, lei nella sua esperienza di giocatore accomuna questa attività, che è un'attività che in realtà non avrei mai associato al gioco d'azzardo, a un gioco quasi di sfida alla sorte. Non c'è più nessun tipo di professionalità dietro, nessun desiderio di arricchimento, ma diventa quella frenesia e quel piacere esatto. perverso di mettersi in gioco qualcosa. Esatto, io adesso in questo momento sono in terapia per questo motivo qui. Lei è dipendente da trading online? Sì. C'è stato anche verso luglio un articolo sul Sole 24 Ore proprio riguardante la dipendenza del trading online, perché ormai prescinde, naturalmente io ho una certa esperienza, no, dal punto di vista dei mercati finanziari, ma ormai il mio avvicinarmi prescindeva da quelli che erano i fondamentali, analisi tecnica, tutte le altre... No, ma è stato molto chiaro, ho capito. A questo punto ogni strumento professionale, ogni esperienza, volontariamente lei la mette da parte, se no non c'è azzardo, se no diventa un lavoro. Sì, esatto. Ma questo comunque è stato molto facilitato dalla possibilità della leva finanziaria, cioè praticamente... la banca ti dà la possibilità di giocare non con i soldi che uno mette, ma moltiplicando quei soldi che uno mette, ad esempio per 20. Se io ho 100 euro, non gioco per 100 euro, ma gioco per 2000 euro. Quindi ha tutte le caratteristiche ormai di un gioco d'azzardo, non sì, ha più esatto. niente a che fare con un'operazione finanziaria. Va bene, ma come la stanno curando a lei? Le mettono dei lucchetti alle dita? Come fanno? Come si faceva una volta nelle scuole vittoriane? Oggi è stato un caso che io l'ascolto quasi sempre. Oggi è stato un caso che ieri, quando sono tornato dalla seduta, per la prima volta ho detto questo problema a mia moglie e ho detto che sto in terapia, non è da tanto, sono quattro sedute che sono in terapia. E come ha tirato un sospiro di sollievo, cioè, ma è meglio così, pensavo sì, chissà sì, cosa. È stata molto molto contenta. È stata molto contenta e diciamo che sono come mi stanno curando, intanto cercando di togliermi tutte le possibilità di avere soldi, no? Infatti, diciamo il si autointerdice lei. Sì, con l'aiuto del medico sto cercando di le mie entrate di girarle a mia moglie. Cioè, quindi io ho, diciamo, un minimo essenziale per vivere, per poter fare, insomma, le mie cose quotidiane, e tutto il resto viene girato, diciamo, in questo caso a mia moglie o comunque a una persona di fiducia. Sua moglie le dà la paghetta, quindi? In pratica quello che dice il dottore dovrebbe essere così, anche se io ancora non l'ho messo proprio... Vabbè, è giusto che lei spise, questa è qualcosa che la portava alla rovina, si becca questa bella mortificazione di andare a chiedere alla moglie dammi 5 euro per le sigarette. Buona giornata, sentiamo la dottoressa Capitanucci su questa terapia di cui non sapevo nemmeno dell'esistenza. Lei ha qualcosa da aggiungere, dottoressa? Ma allora, sicuramente se lo assimiliamo a ogni altra forma di dipendenza, anche la dipendenza da gioco prescrive che la persona dipendente non sia in grado da sola di controllare il suo comportamento. Taluni ce la fanno, quindi non generalizziamo mai, però in linea generale si può dire che se una persona può contare sull'aiuto di un congiunto, di un familiare, come ha fatto il testimone che ha appena parlato, può essere una risorsa per lui. Allora, intanto è importante che chi è intorno alla persona sappia che cos'è il gioco, che non premi mai comportamenti indesiderabili, per esempio coprendo i debiti, coprendo le malefatte che poi vengono riprodotte durante la terapia. Il tenere la contabilità è purtroppo un elemento prezioso, perché è un po' come dire a un alcol dipendente: ti do a disposizione dell'alcol e te lo lascio lì. E i soldi sono il motore, sono la benzina che fa funzionare il gioco d'azzardo, e dunque purtroppo questa contabilità sui soldi pochi per giorno, via le carte di credito, via il bancomat, conti non più a libero accesso e quant'altro, è un elemento importante della terapia, come pure il bilancio dei debiti e il piano di risanamento, perché spesso i debiti emergono piano piano, un poco alla volta, non dall'inizio della terapia vengono tutti alla luce, e purtroppo i debiti sono spesso fonte di ricaduta quando, come dire, anche dopo mesi di terapia magari esce una cambiale da pagare, esce un conto. Ecco, dottoressa, sentiamo un attimo, perché in questo momento un ascoltatore in linea che dovrebbe saperne sicuramente molto su questo caso. Giorgio, buongiorno. Buongiorno. Lei è un direttore di banca? Ex, ora sono pensionato. Ecco, ha avuto fra i suoi clienti qualche giocatore incallito? Perbacco. Alcuni anni fa... Voi banche su questo molte volte vi fregate le mani, perché è una bella occasione. No, assolutamente, anche perché in questi casi non c'è mai da guadagnare, c'è solo da rimettersi se si dà fiducia. Questo era un industriale... Dipende quanti immobili di copertura ha il cliente. Perché in quel caso... il conto era di corrispondenza, non c'era nessun tipo di finanziamento, di affidamento o quant'altro. Lui aveva danari suoi, era un industriale con un'azienda florida nel milanese, ed è stato accompagnato da me, che avevo l'agenzia a Bergamo, da un mio cliente, evidentemente suo socio in gioco d'azzardo. Le dico che nel giro di 15 giorni quest'uomo ha polverizzato 800 milioni di lire nel giro di 15 giorni, e l'unico sistema per farlo smettere è stato che, una volta accortisi o comunque arrivati allo stremo i familiari, lo hanno fatto interdire. Lui era d'accordo ad essere interdetto? Non credo proprio, comunque poi io al di là di questo non l'ho più visto. Era, sì, perché è un meccanismo molto complicato, l'interdizione non è così automatica e così semplice. Comunque io non l'ho più visto, in quanto a me è stato detto da quel mio cliente che lo aveva accompagnato che lo aveva fatto interdire. Volevo aggiungere una cosa in merito a quella fauna che vegeta a fianco ai casinò, anzi dentro i casinò. Sì, velocemente dobbiamo chiudere, sì. Una battuta. Ci sono dei veri e propri professionisti che sono lì espressamente per finanziare, fra virgolette finanziare, quelli che non hanno più denaro. Certo, contante. È uno dei meccanismi degli usurai, è stare vicino a chi ha bisogno, e i luoghi in cui c'è bisogno immediato di denaro contante sono proprio quelli in cui si gioca, visto che la situazione che lei, di cui ha appena dato testimonianza, mi sembra lampante in questa direzione. Grazie a tutti e datevi una regolata, ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.